of this life to hang on. Well, everybody hurts. Buccia di quel che c'è poi. Papi, a tu mano, aiuto il cane. E parte di cimare, è questo. È rimasto un prendere, c'è da cosa.

Vecchio oceano, la tua forma armoniosamente sferica, che rallegra la grave faccia della geometria, mi rammenta anche troppo gli occhietti dell'uomo, simili per piccolezza a quelli del cinghiale e a quelli degli uccelli notturni per la circolare perfezione del contorno. E ciò nonostante, l'uomo si è creduto bello in tutti i secoli. Io, per me, suppongo piuttosto che l'uomo creda alla sua bellezza soltanto per amor proprio, ma che non sia bello realmente e che lo sospetti. Perché mai, infatti, guarda la faccia del suo simile con tanto disprezzo? Io ti saluto, vecchio oceano. Era un frammento dai Canti di Maldoror di Lautremont, scritto intorno al 1850. Rabbits prima, la lettura di Mox Cristadoro poi e i Band of Horses che hanno appena chiuso Is There a Ghost, si è aperta quella che è la terza e ultima parte di Eclectic edizione speciale. La voce che sentite è quella di Giulio Cappelloni, di solito conduttore di Eclectic, ma quest'oggi un po' a lato perché sto facendovi conoscere meglio le altre voci di Rock FM, facendovi sentire quali sono i libri che a loro piacciono e i film che a loro piacciono. Ora stanno per arrivare Corretto con Johnny, poi ci sarà Maurizio Faulisi e poi ci sarà Roberto Fricantoni e avremo chiuso per quanto riguarda questa Eclettica edizione speciale che si chiuderà a tutti gli effetti con uno spezzone che io ho voluto mettere per finire con Eclettica su Rock FM. Uno spezzone audio che forse è quasi prevedibile, ma non potevo non utilizzarlo. We'll be right back. visions, you morphidite. Don't call me any of your mother's pet names. What a wet end you are, LeChance. Shut up. I don't shut up. Shut up, I grow up. And when I look at you, I throw up. And then your mother comes around the corner and she licks it up. Oh! Le cose più importanti sono le più difficili da dire, sono quelle di cui ci si vergogna, perché le parole immiseriscono, le parole rimpiccioliscono cose che finché erano nella vostra testa sembravano sconfinate e le riducono a non più che a grandezza naturale quando vengono portate fuori. Le cose più importanti giacciono troppo vicine al punto dove è sepolto il vostro cuore segreto, come segnali lasciati per ritrovare un tesoro che i vostri nemici sarebbero felicissimi di portar via. E potreste fare rivelazioni che vi costano, per poi scoprire che la gente vi guarda strano, senza capire affatto quello che avete detto, senza capire perché vi sembrava tanto importante da piangere quasi mentre lo dicevate. Questa è la cosa peggiore, secondo me. Quando il segreto rimane chiuso dentro, non per mancanza di uno che lo racconti, ma per mancanza di un orecchio che sappia ascoltare. Il corpo di Stephen King. in the clouds. We drift and triumph with doubts. I never knew what the simple things were all about. The rush of reeling around. We shift to fall and spread out. And I've never clung to such simple things until now. Personalmente mi ci sono molto ritrovato nelle scelte di Maurizio Faolisi. Sarà per un motivo generazionale o semplicemente per coincidenza di gusti, soprattutto quella del film Stand By Me, un film a cui sono molto molto legato. Rimane Freak, rimane Roberto Freak Antoni, che arriverà fra poco dopo che vi sarete ascoltati la cover di un brano di Madonna rifatta da Malcolm Middleton, ex membro degli Arab Strap. Tra l'altro quelli che vi siete appena ascoltati erano The Plastic Constellations con Stay That Way, ma vi ricordo che di questa trasmissione verrà pubblicata la playlist, quindi l'elenco completo dei libri, dei film e delle canzoni, e se possibile, cosa che ancora non mi è chiara assolutamente, anche il podcasting. Giulio Capeldoni poi alla fine ritornerà in voce semplicemente per salutarvi e per introdurvi allo sprazzo cinematografico che, come già ho detto, ho deciso di utilizzare per salutarvi. You make my life much brighter. You're always on my mind. You make my load much lighter. True love is hard to find. Sometimes I feel I have to get away. I change my mind when I look in your eyes, and when those clouds come in and try to darken my day, I'll always want you to stay. You saw through my lies and deception. Yeah, I was losing my way. You gave my life.

vedeva gli occhi di Arjuna velati di pianto e comprendeva la sua compassione. Per questo il beato gli disse: tu sei guerriero per nascita, come puoi dubitare ora? L'incertezza è un disonore e preclude il cielo. Non puoi lasciarti andare, tu sei figlio di Kunti. Rialzati e abbandona ogni sentimento meschino. Arjuna allora gli rispose: come potrei armarmi di frecce per combattere Bhishma e Drona, degni solo di venerazione? Dimmelo tu che sei il terrore dei nemici. Preferirei vivere di elemosina che affrontare i maestri. Il loro sangue macchierebbe la gioia della vittoria, anche ora che pensano solo al profitto. Non sappiamo in che cosa sperare, se nella nostra vittoria o nella loro. Gli stessi che morendo renderebbero vana la nostra vita sono schierati davanti a noi. Sono vinto dalla pietà e incerto sul Dharma. Mi rifugio in te, maestro. You best when you carve out the death in your chest, throw it under your hood. My life's this road which I misunderstood.